Il giorno successivo, dopo un mattino insopportabilmente lungo, non appena furono soli, l'affrontò direttamente sulla spinosa questione dei mariti. Trovo non sia giusto, Ingeborg, le disse. Sì, ho deciso di darti del tu. Noi due, tu e io, siamo compagni di viaggio lungo questa strada ridicolmente impervia chiamata vita, e presto non saremo più di questo mondo. Quindi, mia cara, cerchiamo di rimanere amici per il tempo che ci resta da vivere. Oh, ma certo. Trovo non sia giusto, sai, escludere taluni aspetti della vita, assolutamente naturali, solo per via di certi insani preconcetti che vengono convenzionalmente definiti buon gusto. Anzi, il cosiddetto cattivo gusto è l'unico lato davvero vitale della nostra esistenza. Tutti i preliminari necessari a una vera unione, a un'unione di qualsiasi natura, di mente, di corpo. Consistono, a mio avviso, nel liberarsi di ogni forma di reticenza, di circospezione, di assurda regola di decoro. Preliminari di cattivo gusto, forse. Ma se vogliamo essere amici, dobbiamo deciderci a compiere questo passo, un passo di cattivo gusto, di pessimo gusto. Ma ora si arrestò all'improvviso. Ebbene? Ingeborg lo fissava con espressione allarmata. Era il discorso più lungo che egli avesse mai fatto e lei non osava pensare a come potesse concludersi. Come sempre, lui era occupato ad abbozzare il suo profilo. Sino a quel momento aveva prodotto un'infinità di schizzi del viso Ingeborg e intervallava ogni tratto che apponeva sulla carta un'occhiata lanciata in una direzione con piglio professionale. I mariti. Dimmi che cosa pensi dei mariti. I mariti? Beh, non è certo un argomento di cattivo gusto. Rispose. Dimmi comunque che cosa ne pensi. Penso che siano persone alle quali le donne vogliono molto bene, disse tenendo le mani intrecciate attorno alle ginocchia. Trovi davvero? Sì. E tu? Non ne ho mai avuto uno. I vantaggi dell'essere donna. I mariti sono persone alle quali si vuol bene una volta e per sempre. Sono coloro che ti salvano da Rochester. Sono buoni e gentili e ti aiutano ad accumulare una gran quantità di comuni ricordi e tutti i ricordi diventano con il tempo tenere reminiscenze. E poi sono pazienti. Anche quando scoprono quanto stancante possa diventare una moglie. E quindi una donna, beh, li ama. E loro contraccambiano. Ingeborg arrossì. Naturalmente, rispose. Mi fai ridere con i tuoi naturalmente una volta e per sempre. Di sicuro sai che non esiste niente di tutto ciò. Non bisogna mai dare nulla per scontato, non quando si tratta di esseri umani, intendo. Ingeborg si tormentava le mani, conosceva fin troppo bene la disonestà dei suoi naturalmente e ricordava altrettanto bene lo spegnersi improvviso dopo zoppota dell'amore di Robert. Ma il resto era tutto vero, pensò. E lo amava. Amava il suo Robert. Si disse che la differenza tra lui e un amico straordinario come Ingram stava nel fatto che Ingram la interessava profondamente, mentre nel caso di Robert questo non accadeva. Supponeva questo fenomeno potesse spiegarsi con il fatto che amava Robert. Il perfetto amore, disse a se stessa, mentre con rapida attenzione osservava un bruco peloso dall'aspetto raccapricciante attraversare il sentiero dirigendosi verso le sue scarpe, il perfetto amore escludeva parecchie cose. La conversazione, per esempio, e l'interesse, un elemento difficile da ottenere in mancanza di conversazione. Senza dubbio l'interesse era un sentimento del tutto secondario rispetto all'amore, ed essendo collegato alla conversazione risultava più che assoso, necessitando una copiosità del tutto superflua, quando invece si aveva a che fare con sfere di sentimento più elevate. Ogni donna, avendo il proprio Robert da amare, se ne stava tranquilla. L'amore era in assoluto il sentimento più eccelso, concluse mentre tirava i piedi sotto di sé acciambellandosi. Ma quant'era di gran lunga più spassoso l'interesse? Ebbene? Chiese, tenendo lo sguardo fisso su di lei. Prosegui pure. Non posso proseguire perché ho già finito. Non c'è altro da dire. È un soggetto che si esaurisce alquanto rapidamente. È perché è un affetto grande, ma semplice. Quando si tratta di mariti, si sa sempre a che punto si è arrivati. Forse intendi dire che in realtà non si è arrivati a nessun punto. Oh, disse alzando il capo con aria di sfida e affrontandolo con coraggio. Non volete proprio rendervi conto? E comunque sia, se anche fosse vero, si tratterebbe di una condizione di grande placidità e riposo. Negazione, morte. Per caso trovi che anche la mia compagnia sia placida e riposante? No, niente affatto, rispose Ingeborg senza esitare. Egli posò i pennelli e la fissò con intensità. Che clemenza! Che clemenza! Iniziavo a temere che avresti risposto di sì. Verso la fine della terza settimana accadde una cosa strana. Egli non aveva compiuto alcun progresso nel perforare il guscio esterno di Ingeborg e a raggiungere le sue più intime profondità, ma lei, sorprendentemente, era riuscita a farsi strada tra le sue. In quel periodo della sua vita, così come per un certo numero di anni che l'avevano preceduto, il guscio esterno di Ingram era costituito dal desiderio di evitare la noia, di afferrare qualsiasi occasione che promettesse di offrirgli uno stimolo e di spremerla con diligenza fino a quando anche l'ultima goccia di divertimento fosse stata estratta, per poi gettarla in un angolo del tutto prosciugata ed esaurita. Si trattava di quel genere di guscio che crea divergenze d'opinione tra marito e moglie. E protetto al suo interno, assiso su un trono sfolgorante, vi era il valore che nella vita veniva per lui prima di ogni altro, il lavoro. Egli non capiva come né perché, ma durante quella terza settimana Ingeborg riuscì a intagliarsi un varco nella sua corazza e a mescolarsi inestricabilmente con la sacra fiammante entità al suo interno. Ingram riservava al suo lavoro una posizione di somma venerazione, collocandola a una distanza incommensurabile da qualsiasi interesse che avrebbe potuto provare per una donna. I numerosi corteggiamenti di cui il suo passato era irto, allo stesso modo in cui il camposanto di una chiesa irto di pietre tombali e rose dal tempo, erano stati tutti condotti, per così dire, sulla soglia della sua anima. Era lui a uscire dal suo tempio sacro per incontrare la dama, una dama destinata quanto prima a trasformarsi in ennesima pietra tombale. E quegli incontri avvenivano talora con passione, talaltra con illusione, ma sempre con l'incrollabile volontà di voler credere che infine si trattasse della donna giusta. Nessuna dama però era mai riuscita a guadagnarsi l'ingresso al tempio, che si buscassero pure un raffreddore, per quel che gliene importava. A lui bastava che non varcassero mai quell'inviolabile soglia, che non iniziassero a interferire, a ostacolare, a frapporsi. Inevitabilmente alla fine ognuna veniva lasciata là fuori, sola, al gelo. Ed ecco che ora a quella soglia si presentava Ingeborg, non interferendo, non ostacolando, bensì assecondando in modo del tutto positivo. All'inizio la crescente bellezza degli studi pittorici che compiva su di lei destarono in Ingram dei sospetti. Se ne sentì colto di sorpresa, preso alla sprovvista, come se fosse all'opera un'entità completamente indipendente, separata e fuori dal controllo della sua volontà. Aveva trovato così poca bellezza negli esseri umani. I suoi quadri, che mostravano sempre una certa dose di risentimento, erano denunce di meschinità meravigliosamente e maliziosamente tratteggiate da un maestro appostato dietro le quinte. Spinto dal desiderio di corteggiare Ingeborg, per 2 settimane non aveva cessato un solo istante di abbozzare schizzi, di imbrattare di colore tele e superfici, mere scusanti per poter rimanere accanto a lei, per lasciare che il suo animo si rinfrescasse a quell'inattesa, limpida sorgente. Si era sentito via via attratto, poi irritato, poi ulteriormente attratto, indi fortemente esasperato, in ultimo fortemente attratto. Alla fine era diventato bramoso, determinato, quasi angosciato. Quelle emozioni però erano state tutte vissute sulla soglia della sua più recondita intimità. Ingeborg, fino allora, non era stata che un sostituto, e per di più solo temporaneo, del suo viaggio verso il Caucaso. Poi, durante quella terza settimana, percepì che la funzione di sostituto stava venendo meno. Non era più solo una personcina bizzarra, un figurino incantevole dai colori che egli più amava, come i capelli chiari e la carnagione candida, o un seguace devoto che bruciava incenso ai suoi piedi con insaziabile zelo, oppure ancora un essere sempre pago e colmo di generosa, sollecita amicizia. Sì, era ancora tutto quello, ma ora anche molto di più. Così come era successo ad Adamo, quando egli aveva soffiato nelle narici l'afflato della vita, Anche Ingeborg era diventata materia vivente, una materia che si incarnava nella sua arte. Ora ciò che iniziava ad affiorare dagli studi pittorici non era solo l'anima di Ingeborg, ma anche la sua. Ogni bozzetto mostrava in successione strati sempre più profondi della sua bellezza interiore. Forme e colori fissavano sulla carta qualità di lei e qualità di se stesso che fino a quel momento gli erano rimaste ignote. Era come se egli stesse osservando, mentre la sua mano veniva afferrata e guidata con perizia e celerità, pennellata dopo pennellata, l'opera di un grandioso e ineguagliabile pittore proveniente da un'altra galassia, che imponendo il proprio ascendente su di lui come un maestro lo impone su un allievo, gli rivelasse quelle verità e gli dicesse a ogni nuovo tratto: guarda, ecco com'è lei davvero, com'è la sua essenza, il suo spirito, e guarda, così sei anche tu, un artista in grado di cogliere quelle sue qualità. In quella terza settimana, un pomeriggio a tarda ora, si recarono al lago. Ingeborg remava lentamente in mezzo alle acque calme con il viso rivolto al tramonto e Ingram sedeva all'estremità opposta, girandovi le spalle. Egli, rapito, la osservava trasfigurarsi man mano che il sole si abbassava sull'orizzonte. Già all'inizio della loro conoscenza, lui le aveva consigliato di vestirsi sempre di bianco e di lasciar perdere il cappello, accessorio insulso e del tutto superfluo. Ecco quindi perché Ingeborg, in abiti immacolati, sedeva in barca a capo scoperto. La luce forte la abbagliava. Non riusciva a vedere nulla di lui se non una sagoma scura contro il cielo infuocato. Ma quando si accinse a virare in direzione del sollievo offerto dall'ombra lungo la sponda, egli la fermò all'istante e le ordinò di tenersi ben rivolta verso il sole. «Così non ci vedo», disse. «Ma io sì, è per il mio quadro. Sarà uno studio sulla luce. Riuscirete a farlo basandovi sugli schizzi?» «No, davvero. Ma non avete detto che qui vi è impossibile senza un luogo adatto?» Infatti, lo dipingerò a Venezia nel mio studio. A memoria? No, di certo, dovrei posare per me. Ingeborg scoppiò a ridere. Come vorrei che fosse possibile, disse. Muoio dalla voglia di vedere posti nuovi, di andare in Italia. Trasse un profondo sospiro. La sola idea era per lei struggente, la traeva in modo insopportabile. Beh, dovrei venirci, non solo perché è mostruosa se non ti sia consentito farlo. Mostruoso, scioccante, incredibile, come il fatto che tu debba essere relegata qui a Köckense per anni e anni, senza mai poter vedere, sentire o conoscere le grandi cose della vita, ma anche perché non puoi rovinare la mia grande opera, la più eccelsa in assoluto. Ma Robert non potrebbe mai lasciare il suo lavoro. Io non voglio che Robert lasci nulla. È te che devo ritrarre. Non posso assolutamente fare a meno di te. È una situazione davvero incresciosa, considerò sorridendo, dato che anche Robert non può fare a meno di me. Con un gesto improvviso e impetuoso, egli immerse il braccio nell'acqua. Ne raccolse un poco nell'incavo della mano per lanciarla in aria, lasciando poi ricadere il braccio con un tonfo. Nella sua vita gli era sempre apparso ovvio che quando si trattava dei valori supremi, non solo egli stesso, ma anche gli altri avevano il dovere di rinunciare a tutto per realizzarli. Il mondo intero, per i secoli a venire, ne avrebbe beneficiato. Intimamente nutriva una fiducia illimitata nelle sue capacità di creatore e coloro che si trovavano a essere necessari al compimento di quel processo dovevano mettere a disposizione anima e corpo in quello che lui considerava un sacrificio assolutamente ragionevole. Se qualcuno si fosse reso necessario alla realizzazione della sua grande opera, anche se solo indirettamente, rendendolo felice mentre la eseguiva, per permettergli di dare il meglio di sé, allora era compito preciso di quella persona accorrere in suo aiuto. Un dovere supremo, superiore all'amore per la propria famiglia o per il proprio paese. Era convinto che anche lui avrebbe fatto lo stesso per chiunque altro avesse posseduto le sue stesse doti. Benché la sua reputazione avesse compiuto considerevoli balzi in avanti, egli si era trascinato in una condizione di insoddisfazione e inquietudine per anni, dovuta alla consapevolezza di non aver ancora raggiunto l'apice a cui aspirava. La noia l'aveva attanagliato, un gran disgusto nei confronti dell'umanità, per non parlare di fastidiose complicazioni di natura privata. Sua moglie si era dimostrata parecchio seccante e ben poco comprensiva. E ora che finalmente aveva scoperto quel tesoro, pensò, scoccando a Ingeborg un'occhiata che esprimeva tutta la furia che si impadroniva di lui quando un qualsiasi impedimento veniva a frapporsi fra sé e e l'arte, quel tesoro di luce, fuoco e di torre, quella gemma preziosa rimasta nascosta, nascosta ai suoi occhi, in attesa che lui venisse e la trasformasse in una suprema opera d'arte. Ecco che lei gli intralciava il cammino con deprecabili ostacoli da quattro soldi, avanzando difficoltà da filistei e ridicole inezie. Robert, in una parola. Ma ti rendi conto? E chiese piegandosi in avanti e fissandola con quei suoi occhi pallidi. Che cosa significherebbe farsi ritrarre da me? La mia somma glorificazione, il mio massimo orgoglio. Ingram le chiedò la sua risposta con un cenno della mano. Significherebbe che un altro inestimabile capolavoro andrebbe ad assommarsi al patrimonio dell'umanità. Oh, rispose Ingeborg, e poi dopo un attimo di respiro, trattenuta ancora. Ah. Si sentiva in preda a un timore reverenziale. La voce che fluiva tra i denti stretti di quella sagoma nera la lasciò ammutolita, in soggezione. Accecata dalla luce del sole, percependo tutta la forza e l'intensità che scaturiva da quel suono, sapeva di trovarsi al cospetto dell'immensità. Si chiese se la situazione fosse stata peggiore, e qui subito si corresse, trasformando quell'espressione in più radiosa. Si era trattato di mera svista della sua mente. Se a sedere nel barchino accanto a lei fossero stati contemporaneamente presenti Shakespeare, Sofocle, Omero e tutti gli autori del periodo rinascimentale. Per debole che fosse, si aggrappò con tutte le sue forze all'appiglio offerto dal remo. È una grande responsabilità, asserì, ma in modo poco convincente. Certo che lo è, ribatté lui ancora con voce perentoria. E come tale deve venire adeguatamente onorata. Ma che cosa ho fatto per? In me è già presente il dipinto, te lo posso giurare, lo sento e lo vedo. Sarà il degno coronamento di tutta la mia carriera, un'opera intrisa di palpitante bellezza che sopravviverà a intere generazioni. Un ritratto di signora che richiamerà il mondo intero ad ammirarlo per secoli e secoli anche dopo la nostra morte. Poi si interruppe. Decise di sospendere il bombardamento di quelle frasi coercitive e iniziò a implorarla. Ingeborg, durante il mio soggiorno qui mi hai purificato e glorificato come solo i raggi del sole sanno fare, e questo senza alcuna specifica intenzione da parte tua, senza prestabilire alcunché. Tu sei gli occhi attraverso i quali osservo l'universo, e se non fosse stato per te a quest'ora esso continuerebbe ad apparirmi come un mostro cieco, una maschera di orrore. Senza di te, beh, al mattino per esempio, quando non posso venire a trovarti, mi sento come una nave ormeggiata in un porto fuori da ogni rotta, come un aeroplano senza motore, come un libro a cui sia stata strappata la prima e l'ultima pagina. Vivo ogni mia mattina come un romanzo realista di Gissing, dopo la lettura di una fiaba incantata. I pomeriggi invece sono fulgide visioni di cristallo, di sogno, una pozione magica che la gente comune vorrebbe bere per entrare in un paese fatato. Sei una tale modesta personcina. Eppure lasci dietro di te un vuoto enorme. È incredibile come ogni cosa appaia languire quando sono lontano da te. So che le opere che ho realizzato finora, prima di conoscerti, sono ben poco se paragonate a ciò che potrò eseguire in futuro, ma so anche che non riuscirò a far nulla, che sarò destinato a fallire se tu non sarai al mio fianco. Deridimi pure, se ti pare. Scherniscimi e dammi del parassita. Sento che in tutti questi anni la mia vita senza di te è stata come un involucro privo di contenuto. Non puoi lasciarmi di nuovo solo. Non puoi farmi ripiombare nelle vecchie afflizioni, nella consueta propensione a venir meno alle mete più alte. Sei lo spirito della mia parte più intima, che spiega il significato della mia esistenza. Sei la mia realtà, il mio trionfo, colei che mi tramuterà in un dio. E il dipinto che farò di te sarà conosciuto come il ritratto di colei che gli restituì l'anima. Capitolo 30. Ingeborg, incapace di reagire, fissava la figura nera in controluce. Si sentiva sopraffatta. Che cosa poteva mai rispondere a quelle declamazioni la rispettabile moglie di un pastore? Suonavano sincere, anche se ovviamente non credeva esattamente a ogni parola, in particolar modo a quelle che la zona più recondita della sua mente, la parte che saltabeccava a destra e a manca formulando domande irrilevanti. Quando la situazione imponeva totale irreprensibilità, definiva le decorazioni. Come poteva una celebrità quale Ingram pensare cose tanto meravigliose sul suo conto? Ma non sospettava più che si stesse prendendo gioco di lei. Ora, percependo che dietro a quei discorsi vi erano emozioni genuine, era certa che provasse almeno parte di ciò che le diceva. Si sentiva in preda al timore e all'estasi al tempo stesso. Era possibile che avesse finalmente trovato qualcuno che la desiderasse realmente, che avesse bisogno del suo aiuto, che proprio lui, Ingram, fra tutte le persone del mondo, avesse davvero necessità della sua presenza? Stentava a credere che solo qualche settimana prima vagava per Kirkense così completamente derelitta da provare gioia se solo un cane scodinzolava al suo apparire. È una grande responsabilità, mormorò per la seconda volta, il viso trasfigurato e non solo dal tramonto. Lo era, infatti, per via di Robert. Persino in quel momento di suprema elevazione, in cui tutto sembrava facile e possibile, Ingeborg serbava la consapevolezza che Robert non avrebbe compreso. Robert non aveva bisogno di lei, ma non avrebbe mai acconsentito a lasciarla andare a Venezia. E non solo, dovette constatare con rammarico che Robert aveva altresì mancato di comprendere l'importanza di Ingram per il mondo intero. Forse non essendo un particolare estimatore dell'arte, tutto sommato non era da biasimare. Robert ne era matematicamente certa, non avrebbe mai lasciato il suo lavoro, nemmeno per un'ora, per portarli in qualsiasi luogo, neppure se per una nobilissima finalità. E senza di lui, come sarebbe potuta andare a Venezia? Nessuno poteva andare a Venezia, se non con il proprio marito. Ci poteva andare con una vagonata di persone a lei indifferenti, ma solo se lo erano anche loro. Non appena trovavi qualcuno che ti piaceva, con cui sarebbe stato meraviglioso viaggiare, lasciandoti guidare, accudire, impedendoti di smarrirti, allora non si poteva più andare. Come per il baciare, anche la faccenda del viaggiare sembrava essere una questione di puro gradimento. Le regole dettate dalla società, invece, sembravano basarsi sull'indifferenza. Avevi licenza di baciare chi non avresti mai voluto baciare, parimenti, potevi andare a Venezia con chiunque, purché ti fosse indifferente. E nel loro caso. Oh, insomma, esclamò all'improvviso, quasi gridando e lanciando il remo all'indietro del barchino per torcersi le mani, sopraffatta dalla visione di glorie di cui non avrebbe mai goduto. Se la cosa è così importante, così tremendamente importante, è assurdo essere ostacolata dalle convenzioni. Finalmente l'aveva in pugno. Mentre sottraeva i piedi dalla zona di ricaduta del remo, quella rivelazione saettò nella sua mente. Forse l'aveva in pugno in modo diverso da quanto avesse supposto all'inizio, incredibilmente ancora senza consapevolezza della sua sensualità. Comunque sarebbe partita per Venezia, avrebbe posato per lui, permettendogli di realizzare il suo grande capolavoro. Il resto era inevitabile. Che cosa intendi dire? Le chiese, gli occhi fissi su di lei. Pensare che quel capolavoro non verrà mai dipinto. E perché? Per via delle convenzioni sociali, di tutte quelle assurde regole. Ingeborg si stava ancora torcendo le dita, come era solita fare quando era sottosopra. La vostra opera è predestinata, sentenziò, predestinata a non essere mai compiuta. Poi volse su di lui uno sguardo colmo di sgomento, dolore e lacrime. Ingeborg? Sapete con quale intensità io abbia sognato di visitare l'Italia? Gli domandò, interrompendosi con la stessa impulsiva foga che l'aveva spinta anni addietro a entrare nell'agenzia di viaggio. Quanto abbia letto di essa e desiderato conoscerla in ogni mia più intima fibra, fino a star male per lo struggimento. Ho persino guardato gli orari dei treni e i libri che ho letto. Conosco tutti i suoi tesori. Oh, non solo i tesori di arte e storia, ma anche quegli altri tesori, la luce, il colore, il profumo, cioè l'equivalente di tutto ciò che amo ora, ma che qui ho conosciuto solo in pallide e tristi versioni. Conosco ogni cosa. So che un grande manto di glicine riveste i muri lungo il cammino che porta alla Certosa, ricopre ogni metro di parete con grappoli su grappoli di fiori. Quale Certosa? Pavia, sì, Pavia! E in aprile tutta la spianata lì di fronte è pervasa da quel profumo divino. Se poi di quelle rose rosse, che si aprono ogni mese, si spingono dentro e fuori il Camposanto, sopra Genova, in gennaio. In gennaio, pensate, rose rosse a gennaio. Qui invece. E so delle lucciole nei giardini fuori Firenze, a maggio, all'inizio di maggio, quando qui da noi si sta ancora seduti di fronte alla stufa. So dei boschi di castagno lungo le ripide sponde dei laghi che producono frutti squisiti e del sottobosco ai loro piedi rivestito di soffice muschio verde. E quel particolare tipo di uva che pizzica la lingua e che a settembre riempie il mondo di profumo di fragole. E l'aspetto della via Appia in aprile, quando la massa di erba e di fiori di cui è orlata ondeggia e si infuoca sotto quella luce immensa. Conosco il color giallo miele delle case nelle zone più antiche di Roma e gli iris che si vendono in strada, simili a coralli rosa pallido. E per vedere tutto quello splendore con i propri occhi è sufficiente prendere un treno a Moek. Si può salire su quel treno a Moek ogni giorno è al binario, ma la persona che desidera salirci non si trova mai lì. Se mai ci salisse Köckense, si ritirerebbe come un sipario e il mondo, non più paludato nel vecchio abito inabidato, nel consueto drappo funebre, apparirebbe ai suoi occhi vestito di nuovo. Pensateci un attimo. Pensate a quale scenario sarebbe per la più grandiosa opera d'arte mai realizzata sulla faccia della terra. Si interruppe e raccolse il remo. Mi chiedo, considerò con improvvisa noncuranza, perché dico tutto questo a voi? Perché, disse Ingram a bassa voce, tu sei mia sorella e mia compagna. Ingeborg immerse il remo nell'acqua e virò la barca verso casa. Ma, disse poi, svuotata di ogni entusiasmo, osservati da quell'angolazione, l'acqua, il cielo, le foreste lungo le rive e la guglia della chiesa di Köckense apparivano scure, malinconiche. Dopo il bagliore, accecante del sole, non le riusciva di vedere nulla, ma presto le si rivelarono le consuete colorazioni grigiastre e il senso di desolazione. Sono solo parole, affermò. Io dico cose entusiastiche, voi dite cose belle, elevate, ma è tutto vano. E invece no, questa volta le metteremo anche in pratica. Tu verrai con me a Venezia, mia cara. Non hai mai letto su quei tuoi libri come appaia la laguna al tramonto? Ingeborg produsse un gesto di impazienza. Ingeborg, cerchiamo di ragionare insieme. Non posso. Bene, allora ascoltami. Ingram procedette a ragionare durante tutto il percorso sul lago e poi su, attraverso i campi di segale e ancora più tardi in giardino, mentre passeggiava avanti e indietro con lei sotto i tigli nel crepuscolo incipiente. È incredibile, pensavano gli strati più sommersi della sua mente, dove regnavano orde di folletti che dileggiavano ogni cosa. Com'è faticoso conquistare una donna. Ingeborg lo lasciava parlare, ascoltando in silenzio, le mani allacciate dietro la schiena, mentre gli occhi osservavano i più impercettibili accadimenti lungo il sentiero sbiancato dal caldo. I ramoscelli spezzati e sparsi ovunque, alcuni fiori di pisello odoroso avvizziti che aveva utilizzato nel pomeriggio quale ornamento. Un esercito di formiche che stette ben attenta a non schiacciare sotto i suoi passi. Egli argomentò con zelo fino a che non apparvero le stelle in cielo. Parlò della follia delle convenzioni sociali, del modo ridicolo in cui le persone solevano mettersi in catene di propria volontà, rendersi prigioniere con le proprie mani di qualche sciocca teoria del giusto e dello sbagliato. Aggiunse che l'anima di quelle persone era così indecente da impedir loro di allentare di un solo centimetro le catene o di liberarsi anche per un solo istante dalle convenzioni per tuffarsi nella più innocente delle avventure. Tali persone, le spiegò, erano nel loro intimo le più profondamente e incurabilmente immorali. Per sopravvivere necessitavano di percorsi predefiniti e rigide norme a cui appellarsi. L'unica loro speranza era riposta in quelle catene. Con loro, aggiunse, persone di sani principi come noi due non hanno nulla a che fare. Prese poi a parlare di tutti quegli altri, i cosiddetti spiriti liberi, che aumentavano di giorno in giorno, coloro dotati di saggi, onesti fondamenti morali e intellettuali, che non chiedevano garanzie alcune ed erano continuamente impegnati a dimostrare al mondo che due amici, un uomo e una donna. Potevano benissimo, per esempio, viaggiare e star via insieme ammirando gli splendori del mondo, con la semplicità di due bambini o di un fratello e una sorella, per far poi ritorno in tutta tranquillità anche dopo la più lunga assenza, senza nemmeno un ricordo di cui pentirsi. Beh, ve n'erano parecchi, ed egli produsse a titolo esemplificativo alcuni nomi di personaggi ben noti che erano andati e tornati alla luce del sole, proseliti franchi e determinati di quella dottrina che magnificava i benefici ricavabili dalla naturalezza. E poi ancora altri, spiegò, sfoderando ulteriori nomi di personalità che persino Ingeborg aveva sentito nominare. Indi, sorpreso che quello stratagemma colpisse con tanta efficacia nel segno, prese a inventarne di nuovi, con crescente ardimento, citando persone famose e sicuramente note anche a Ingeborg, accoppiandoli e spedendoli a Venezia, con abbinamenti tanto bizzarri che quanto prima iniziò a trovare quel lavoro di fantasia notevolmente spassoso. Tutto sommato, considerò, sollazzato dall'immaginare alcune di quelle coppie, era possibile che ci fossero andate davvero. O che ci sarebbero andate prima o poi. Lilienkopf, sai, quel miliardario africano, è andato a Venezia con Lady Missenden. Rovesciò la testa all'indietro con una sonora risata. Sì, il pensiero di Lilienkopf e Lady Missenden era davvero esilarante. Anche loro sono rientrati senza mai pentirsi di nulla, aggiunse riprendendo subito a ridere a crepapelle. Ingeborg lo osservava seria. Non conosceva né Lilienkopf né Lady Missenden e non si sentiva affatto incline al riso. Persino i vescovi ci vanno, affermò Ingram, per escursioni di natura culturale e visite guidate. A Venezia? No, nei luoghi di culto. Ogni città che possiede una cattedrale è meta di infiniti pellegrinaggi segreti. Ma perché segreti? Non avete detto che, beh, diciamo allora pellegrinaggi cauti, vale a dire compiuti da pellegrini che partono con una certa circospezione. Sono certo che tu intuisca la necessità di partire con una certa circospezione, non tanto per noi stessi, quanto per non offendere coloro che sono privi dello spirito del pellegrino. Robert, per esempio. Robert, immagino già la sua faccia se gli chiedessi il permesso di trasformarmi in una pellegrina. Infatti non devi chiedergli proprio nulla. Cosa? Domandò, arrestandosi e piantandogli gli occhi in viso. Andare senza chiedere nulla. Certo, del resto è quello che hai fatto anche quando sei partita per Lucerna. Sai bene che se avessi chiesto il permesso non ci saresti mai andata e allora volevi semplicemente divertirti, mentre ora. Si interruppe per scrutare il viso di lei e ogni traccia di sarcasmo scomparve da quello di lui. Mentre ora, proseguì dopo quella pausa di silenzio, è in gioco la restituzione della mia anima. Ho bisogno di te, mia cara. Ho bisogno di te allo stesso modo in cui un luogo oscuro ha bisogno di una lampada, in cui una stanza gelida necessita di un caminetto. Senza di te il mio lavoro non avrebbe valore. Come potrebbe senza luce per vedere? Sì, sarebbe privo di significato, privo di vita. Sarebbe come un cielo senza le stelle che lo illuminano. Come il fieno senza il fiore che gli dà profumo, e come se il mantello che Dio ci ha dato per tenere lontano il gelo e il male scivolasse via dalle nostre spalle perché privo di un fermaglio che lo trattenga stretto al cuore.